Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, bentornati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buona giornata per modo di dire, perché oggi in borsa abbiamo invece una certa tensione. Sono tornate le tensioni anche sul mercato obbligazionario internazionale e il focolaio, che è abbastanza vivace da qualche tempo, è tornato a concentrare l'attenzione degli investitori su di sé. È quello greco, proprio nelle giornate in cui ha preso il via la missione da parte degli esperti, dei tecnici del Fondo Monetario Internazionale verso questo paese in forte difficoltà. Gli spread dei titoli governativi greci si sono ulteriormente allargati, i tassi di interesse, lo sentivate anche nel giornale radio, sulle obbligazioni governative a 10 anni, stamattina hanno toccato almeno un paio di volte nuovi record. Il nuovo livello storico del tasso di rendimento è il 7,42%, dopo il 7,32% che era già stato ritoccato questa mattina, ed è la soglia più alta mai vista dall'introduzione dell'euro. Lo spread invece, io mi rendo conto che stiamo utilizzando termini tecnici, speriamo di chiarirvi le idee nel corso della trasmissione, ma li utilizziamo più volte, è il differenziale con il paritetico titolo tedesco a 10 anni, il Bund, si è attestato a 434 punti base, anche in questo caso il livello più alto dall'ingresso della Grecia nell'Eurozona. E allora, cosa sta succedendo? Perché sono ritornate le preoccupazioni sulla Grecia, visto che è in difficoltà forte da diversi mesi? C'è stato anche un piano coordinato in Europa per in qualche maniera salvaguardare questa economia in forte difficoltà, che non si è ancora attuato, ma in ogni caso è stato messo in piedi, è stato concordato da Francia e Germania. Allora, noi ovviamente, prendendo a spunto quello che sta accadendo stamattina sul mercato, che in realtà è una situazione che si sta ripetendo da qualche giorno, anche se la borsa, e anche questo è un tema interessante da affrontare, aveva totalmente, non dico trascurato, ma comunque era apparsa assolutamente disinteressata alle vicissitudini della Grecia, stamattina sembra aver preso coscienza di questa situazione. Gli indici sono arrivati a toccare una perdita di 2 punti, adesso stanno un po' risalendo la china, ma in ogni caso abbiamo un calo di 1,5 punti a Parigi e a Milano, mentre Francoforte perde 1 punto e Londra perde l'1,17%. La borsa greca è scesa stamattina fino a 4 punti percentuali, sono in forte discesa tutti i titoli del settore bancario e adesso vi spiegheremo anche perché, ma in sostanza oggi ritorniamo ad analizzare questa situazione. Peraltro abbiamo molti ascoltatori che ci hanno sollecitato una puntata sui mercati, perché qualcuno guarda già a maggio, a prescindere da quello che accade oggi, quando in genere, ma non sempre, si concretizza il detto sell in May and go away, quindi vendi in maggio e scappa. E siccome tutti i fattori di preoccupazione negli ultimi periodi, come vi dicevo, sono sembrati abbastanza trascurati dalle borse, molti si chiedono se non è che improvvisamente gli investitori si accorgeranno che l'economia si è tornata un po' a crescere, ma non è una crescita così interessante come potrebbe apparire, e allora non è che a maggio ci aspetterà una discesa dirompente del mercato azionario. Insomma, sono tanti i temi interessanti da affrontare. Questa mattina uno sguardo a 360 gradi sul mercato lo daremo insieme ad Emilio Franco, direttore investimenti di UBI Pramerica SGR. Dottor Franco, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Allora, tra l'altro, una puntata che abbiamo organizzato solo con il dottor Franco, anche perché recentemente questa società è stata premiata alla manifestazione Alto Rendimento del Sole 24 Ore come terza migliore SGR italiana e ha vinto anche un premio proprio per il uno dei vostri migliori fondi obbligazionari nell'area euro, se non sbaglio. Sì, il fondo Euro Corporate. Ecco, per cui stamattina la metteremo in croce proprio sulla questione greca, perché chi meglio di lei potrà dirci qualcosa di più rispetto all'andamento dei titoli greci, anche se ovviamente sconsigliamo ai piccoli risparmiatori di approcciarsi verso questi mercati e quindi sconsigliamo di chiamare la banca, visto questi tassi di rendimento, per acquistare un titolo greco. Forse è meglio stare lontani. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire venire in diretta questa mattina, 349 238 6666. Vi ho già detto come si stanno comportando le borse. Ricordiamo che oggi ci sono anche altri appuntamenti importanti, la riunione della Bank of England e soprattutto della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Dovrebbero rimanere inalterati su entrambi i fronti, ma chissà che non ci siano delle sorprese, ma credo che oggi il presidente della BCE, Trichet, non potrà esimersi da fare qualche dichiarazione un po' più precisa sulla situazione greca. Chissà se la farà la conferenza stampa del presidente della BCE prevista come sempre. alle 14.30, la decisione sui tassi alle 13.45. L'euro è sceso fortemente sul dollaro stamattina fino a 1.3279, adesso è risalito a 1.33, ma chiaramente la tensione greca soprattutto sul mercato valutario che si fa sentire. I migliori titoli a Piazza Affari: Prismian più 0.6, Buzzi più 0.30, Fondiaria più 0.09%. Un'ora fa non c'era nessun titolo positivo a Piazza Affari, adesso abbiamo qualche segnale di miglioramento. Pirelli meno 3.43 il peggiore, Mediaset meno 3, STM meno 2.57, Unicredit meno 2,34, quindi anche a Piazza Affari forte discesa per i titoli bancari e assicurativi, ma in realtà le discese stanno riguardando un po' diversi comparti. Anche le materie prime stanno dettando legge in queste ore. Il petrolio è di nuovo fra gli 86 e gli 87 dollari al barile, l'oro toccato un nuovo record da gennaio scorso. Insomma, tanti fattori da commentare. Partiamo subito con la nostra scheda. Le notizie poi smentite sulla volontà greca di rivedere il meccanismo di sostegno varato dall'Unione Europea e su una revisione del deficit per il 2009 hanno riportato qualche timore tra gli investitori. E per quanto Atene abbia smentito le indiscrezioni, l'effetto sul mercato è stato immediato. Ieri i titoli di Stato della Grecia sono tornati sotto pressione, con il differenziale del rendimento tra il bond greco a 10 anni e il bund decennale tedesco, che ha toccato il record, schizzando a 407 punti base, un livello mai raggiunto dall'introduzione dell'euro nel 1999. Le condizioni imposte dal Fondo Monetario Internazionale sarebbero troppo onerose, così come i tassi di interesse dei prestiti provenienti dal vecchio continente. Così le scommesse sul rischio di un fallimento greco sono tornate a correre, come hanno mostrato anche i contratti swap, ai massimi dallo scorso febbraio. E le ripercussioni non hanno tardato a manifestarsi anche sull'euro, sceso di nuovo verso quota 1,33, e sul petrolio, che ha oltrepassato durante la seduta gli 87 dollari al barile, valori che non vedeva dall'ottobre 2008. E allora, come avete sentito nella nostra scheda, abbiamo dato i livelli di ieri dello spread rispetto ai titoli decennali tedeschi, e così come abbiamo dato il livello di ieri appunto dei tassi di rendimento delle obbligazioni governative greche a 10 anni. Stamattina vi dicevo questi record sono stati ritoccati. Dottor Franco, allora io lo dico un po' in trasmissione da almeno inizio gennaio, non sono un'esperta autorevole di mercato naturalmente, però io ho avuto sempre l'impressione che la crisi greca sia stata in maniera forse non troppo ragionevole trascurata dalla borsa. Stamattina sembra averne preso atto improvvisamente, adesso le borse stanno risalendo, ma insomma ci fa una valutazione intanto iniziale della situazione? Dobbiamo preoccuparci o no di una possibile bancarotta di questo Stato sovrano? È l'ennesima volta che faccio questa domanda. Lei è un po' più rassicurante o meno rassicurante degli esperti che ho sentito fino ad ora? Allora, la situazione greca è difficile, questo lo sapevamo, e quello che abbiamo sempre sostenuto è che una situazione così complessa non si risolve con degli annunci, che tantomeno se questi annunci riguardano nuovi pacchetti fiscali o se riguardano potenziali aiuti. Qui ci vorrà parecchio tempo. Il tema è che la Grecia ha vissuto per un po' di anni al di sopra dei propri mezzi, ha beneficiato di tassi tedeschi ed è cresciuta come un paese emergente, i risparmi sono stati decumulati, lo Stato ha continuato a spendere in deficit, questo ha portato a squilibri dei conti con l'estero, accumulazione di debito, e alla fine i debiti si debbono pagare. Questo è in sostanza il tema, che vale purtroppo non solo per la Grecia. Quindi quello che noi pensiamo è che la soluzione della questione greca richiede ancora tempo e richiede austerità, cioè pacchetti fiscali molto seri, perché per rientrare in un sentiero sostenibile di debito pubblico non ci sono molte strade. O cresce economia, e qui crescerà poco perché dovranno fare interventi fiscali pesanti, o si fanno interventi fiscali molto pesanti, o c'è inflazione. Mm-hmm. E questa è una strada che la Grecia non può percorrere perché la sua banca centrale non c'è più, adesso c'è la Banca Centrale Europea, che è molto attenta invece a controllare il livello dei prezzi, oppure esiste il default. Quindi la soluzione per la Grecia sarà da una parte l'austerità, cioè avanzi primari molto significativi, taglio della spesa e incremento delle imposte, della base imponibile. Da una parte non è da escludere il rischio basso, ma c'è, di una qualche forma di default, ovvero di rinegoziazione del debito, perché il tema con tassi di mercato ai livelli attuali è che una fetta molto importante del bilancio dello Stato e del gettito, cioè delle tasse che lo Stato greco incassa, deve essere destinata alla copertura del costo del debito. Mm-hmm. E sempre di più se i tassi di interesse rimangono ai livelli attuali, e questo a lungo termine, anzi direi a medio termine insostenibile per uno Stato civile che praticamente deve distogliere risorse dall'attività ordinaria di funzionamento dello Stato per pagare il proprio debito. Quindi questo rischio che il default in senso tecnico ci possa essere non è un rischio a cui attribuire una probabilità zero, è un rischio a cui attribuire una probabilità bassa, ma tecnicamente default può voler dire molte cose, cioè si possono ritardare dei pagamenti, si può consolidare una parte del debito. È certo che mercati che impongono tassi di rifinanziamento ai livelli attuali realizzano il rischio, lo rendono più attuale che lo Stato greco debba intraprendere delle misure estreme. Comunque, secondo noi la soluzione alla fine sarà una soluzione di austerità, cioè l'aggiustamento fiscale sarà profondamente deflazionistico in Grecia, potrebbe essere richiesto una qualche forma di ricompattamento, riconsolidamento, rinegoziazione del debito, magari in una forma blanda, che non vuol dire non si paga più il debito. Di certo noi pensiamo che per qualche mese volatilità e news flow domineranno il mercato. Settimana scorsa la Grecia ha piazzato 5 miliardi di euro di bond, chi ha comprato questi bond ha perso circa l'8% da allora, chiaramente si è spaventato. Sappiamo che entro maggio ne dovranno essere collocati altri 10 e che in totale quest'anno almeno una trentina di miliardi di euro debbono essere rifinanziati. Quindi un mix, un insieme di soluzioni che siano la solidarietà euro, qualche forma di garanzia da parte degli altri stati partner, l'IMF, il Fondo Monetario Internazionale con qualche sorta di intervento in cambio di un'accettazione della drammaticità della situazione da parte dello Stato. E il grosso costo sociale anche che la Grecia sta pagando in questo momento, perché insomma gli scioperi sono all'ordine del giorno e ce n'è uno nuovo generale in vista entro la fine del mese. Cioè il tema vero è che i costi sociali non sono quelli di oggi, i costi sociali li vedremo fra 6 mesi, fra un anno, nel senso che rientrare da una situazione insostenibile di debito pubblico come quella attuale richiede, come dicevamo, delle misure impopolari che provocheranno una ulteriore recessione in Grecia. È improbabile che il PIL greco nel 2011 cresca intorno al 2%, come dicevo. No, e quindi la vera tenuta politica e sociale greca si vedrà nei prossimi mesi, e questo secondo noi è una delle ragioni per cui volatilità e news flow continueranno a essere molto presenti. Una domanda importante per una risposta che per il momento deve essere abbastanza sintetica, ma poi ci ritorniamo. Le sembra ragionevole che la borsa, dopo essere cresciuta in maniera eccezionale lo scorso anno e ha continuato a mantenere questa tendenza come dire, non dico piatta ma comunque costante, non ci sono stati grossi scossoni dall'inizio dell'anno, non abbia reagito in nessuna misura rispetto a questa crisi, e questo mi riferisco soprattutto alla situazione in Europa, anche se mi continuano a dire che l'economia greca vale per il 2,5% del PIL dell'Eurozona, quindi il peso è talmente basso che è inevitabile che appunto anche il mercato azionario trascuri questa crisi. Secondo lei è ragionevole questo atteggiamento? Ma diciamo, il mercato azionario in realtà è entrato nel 2010 nonostante i cori trionfalistici del consenso che vedevano il mercato azionario destinato a continuare questa salita che è iniziata il 9 di marzo dell'anno scorso senza interruzioni, in una maniera in realtà un pochino più complessa, no? Abbiamo avuto una correzione nella metà del primo trimestre abbastanza importante, dell'11-12%, poi i mercati hanno prontamente recuperato. Questa correzione in parte è stata associata alla Cina e all'inizio della fase di rimozione dell'espansione monetaria da parte della banca centrale cinese, dall'altra ai temi della Grecia. Ecco, noi sinceramente abbiamo una visione che non è molto comune in questo momento. Noi siamo piuttosto prudenti sul mercato azionario, non pensiamo che l'elemento che catalizzerà l'inversione del mercato azionario in questo momento, nei prossimi mesi, sia necessariamente la Grecia. Noi pensiamo che la Grecia da un lato porta sul tavolo un tema di medio-lungo termine che avremo col quale ci dovremo confrontare nei prossimi anni, e che è il fatto che nel sistema economico mondiale dei paesi sviluppati c'è troppo debito. Il debito è stato in parte trasferito dal settore privato, dalle banche, al settore pubblico per evitare che questa grande recessione fosse la grande depressione 2, però il debito rimane, alla fine il debito va ripagato. Quindi questo è il cosiddetto canarino nella miniera di Greenspan dell'altro giorno, secondo noi. Quindi questo rimane un tema importante. Secondo noi quello che è da tenere a mente è che non è probabile che sia cominciato un nuovo ciclo di mercato toro secolare del mercato azionario, perché quando comincia un nuovo ciclo di mercato toro di solito ci sono altri segnali. L'economia è forte, il credito viene generato con grossa facilità, e le valutazioni sono attraenti. In questo momento non ci sembra che nessuna di queste condizioni siano attuali, quindi è più probabile, benissimo, secondo noi, che a catalizzare un'inversione dei mercati sia il fatto che questa ripresa si spenga un pochettino nel corso del secondo semestre rispetto ad attese che invece sono andate via via montando e che adesso si stanno smontando. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Cominceremo a sentire adesso alcuni ascoltatori. C'è chi ci chiede: ma state parlando dell'Italia? No, stavamo parlando della Grecia. Spero che non sia stato ironico il messaggio dell'ascoltatore, ma è chiaro, i parametri, insomma, che indicavamo prima si riferivano chiaramente alla Grecia, non al nostro paese. Parleremo del cambio adesso e parleremo anche della tensione generata oggi, che si deve attribuire anche alla situazione delle banche greche, da cui molti correntisti stanno scappando, e quindi anche questo è un segnale che stamattina ha turbato un poco in termini generali. In attesa delle decisioni della Banca Centrale d'Inghilterra e della Banca Centrale Europea, oggi mercato azionario piuttosto teso. Il focolaio greco è tornato a risollevare la testa, ovviamente non in termini positivi ma negativi. Qual è la situazione? È molto difficile, la Grecia è alle prese con una crisi finanziaria difficilissima, e l'ultima novità che ha scatenato quello che vorremmo, non lo definiamo panico perché insomma abbiamo visto nel pieno della crisi 2 anni fa la borsa che scendeva del 10% per poi recuperare il giorno dopo il 10%, però stamattina è come se la borsa europea avesse un po' preso coscienza, un po' più concretamente, di questo focolaio greco. Il problema è che stanno cominciando a fuoriuscire dalle banche molti conti correnti, cioè i clienti stanno cominciando a scappare. È un po' come quello che abbiamo visto in Inghilterra all'inizio della crisi dei mutui subprime, quando tutti scappavano per esempio da Northern Rock. Dottor Franco, se lo ricorda? Come no. E non vorremmo rivedere più quelle scene. E allora stamattina, già visto che le banche greche sono state declassate dalle agenzie di rating, anche questa nuova scure che si è abbattuta nelle ultime ore è stata molto pesante, tanto che le stesse banche hanno chiesto al governo in sostanza una sorta di paracadute, hanno chiesto: ricapitalizzateci voi, in sostanza, se non avremo più le condizioni appunto per poter operare. Dottor Franco, l'ho chiamata greco prima? No, Franco, ho detto, stavo confondendomi. Allora, sto parlando stamattina con Emilio Franco, che è direttore investimenti di UBI Proamerica SGR. Le email, le domande degli ascoltatori all'800 24 00 24, per commentare questa situazione di borsa questa mattina e la nuova tensione anche sul mercato obbligazionario. Direi di cominciare a sentire un affezionatissimo di Salvadanaio, che è Gianni da Varese, che saluto. Gianni, benvenuto. Buongiorno signorina, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione, siete bravissimi. Bravo il dottor Franco, ci dica tutto. Senta, io ho pensato una cosa, ma vorrei sapere il parere dell'esperto, cioè in piccoli risparmiatori come me, no? Per essere un po' tranquilli, secondo me sarebbe una bella cosa investire i propri risparmi in obbligazioni AAA in valuta forte, tipo la corona norvegese o il dollaro neozelandese. Questi qui non hanno i problemi, perché non c'è solo la Grecia, c'è la Spagna che ha un debito pubblico spaventoso, il Portogallo, l'Irlanda e anche l'Italia, anche noi siamo dietro. I pigs, sì. Quindi volevo sapere questa cosa, poi volevo un suggerimento, ma da un'osservazione. Alla sera dite al signor Barisoni di dire anche lo Standard & Poor's 500, perché l'America è rappresentata dallo Standard & Poor's, non da Dow Jones. Lo so, ma anche quando faccio i mercati del pomeriggio lo dico. Un po' di tempo anche alla borsa, perché i nostri fondi pensione sono investiti lì e lui la tratta sempre di corsa, come se fosse un fastidio. Riporterò, Gianni, ci sono tanti altri argomenti che devono trovare spazio anche nella trasmissione della sera, e quindi abbia pazienza, ci occupiamo noi spesso e volentieri di Salvadanaio con degli approfondimenti che durano 45 minuti. Allora andiamo a queste valute AAA come quelle ricercate dal nostro ascoltatore, dottor Franco. Allora io mi chiedo sempre perché occorra cercare degli investimenti, non dico che siano, però sono lontani da noi. È chiaro che rispetto ad un bot che adesso praticamente per poterci investire dobbiamo pagare noi la banca, la gente va cercando qualcos'altro, però insomma per un piccolo risparmiatore come lui si è definito, è corretto avere un atteggiamento di questo tipo? Allora, direi questo, insomma l'esperienza degli ultimi anni è stata abbastanza eclatante, con i bond argentini, con le emissioni di tante investment bank come Lehman, cioè è molto pericoloso indirizzare i propri investimenti quando si è dei piccoli risparmiatori soltanto alla ricerca della massimizzazione del rendimento cedolare che viene espresso da obbligazioni la cui rischiosità si fa fatica a classificare. Sappiamo poi che negli ultimi anni in molti casi anche emissioni di debito strutturato specialmente apparentemente di elevata qualità con un rating elevato si sono poi dimostrate molto lontane nella pratica in termini di affidabilità e di capacità di ripagare il capitale rispetto a quello che erano le attese. Quindi direi in questo momento i rendimenti sulla Grecia appaiono molto attraenti, però pensiamo che i rischi siano abbastanza elevati e quindi secondo noi un investitore piccolo non si deve azzardare in questo mare molto rischioso in cui non solo si comprano gli spread rispetto al Bund, ma poi si pagano dei bid ask molto elevati all'intermediario che effettua l'operatività. Noi come investitori professionali, anche su prodotti a rendimento assoluto, che quindi cercano anche attraverso il trading di diciamo realizzare del valore per i nostri sottoscrittori, in questo momento abbiamo un approccio sulla Grecia molto prudente. Noi pensiamo che proprio perché alla fine i problemi fiscali dei paesi dell'area euro saranno prevalentemente risolti con degli interventi molto restrittivi di politica fiscale, quindi causando delle deflazioni nei PIGS e facendo calare i salari reali e causando delle recessioni, che alla fine i tassi nell'area euro rimarranno comunque molto bassi e che alla fine il grosso vincitore di tutto questo gioco potrebbe essere la ECB, la Banca Centrale Europea, che rimane una banca centrale veramente indipendente, e la Germania perché è il paese core dell'area euro, è quello veramente virtuoso dal punto di vista fiscale, e detta la legge anche un po' sul salvataggio greco eventualmente è quello virtuoso dal punto di vista fiscale ed è quello virtuoso dal punto di vista dei conti con l'estero. Non a caso in questi giorni di turbolenza sui rendimenti dei paesi periferici, della Grecia in particolare, il Bund continua a salire ed è di fatto tornato sostanzialmente sui massimi di questo ciclo. È uno dei pochi paesi rifugio, è uno dei pochi veri AAA rimasti e negli ultimi due anni, per effetto degli interventi fiscali eccezionali che sono stati posti in essere dai policy maker per limitare l'effetto della grande recessione, tutti i paesi AAA i più importanti hanno peggiorato i loro conti pubblici, lo ha fatto anche la Germania, ma in maniera relativa rispetto agli Stati Uniti, rispetto all'Inghilterra, molto, molto, molto ridotta. Quindi in termini relativi la situazione della Germania è una situazione molto stabile. Il nostro posizionamento prevalente nei fondi euro governativi è sulla Germania e di paesi periferici purtroppo abbiamo soltanto un po' di tali. Purtroppo in quanto ci dobbiamo definire periferici. No, perché pensiamo che il rischio rendimento offerto dalle nostre emissioni sia ancora attraente. Peraltro anche oggi un'agenzia di rating ha commentato in chiave positiva. Sì. Quindi non ci avventuriamo già da investitori professionali in ambiti che riteniamo in questo momento essere rischiosi e pensiamo alle valutazioni di questo rischio non debbano essere affrettate. Lei ha utilizzato poco fa un termine che ha richiamato la mia attenzione perché ne abbiamo parlato più volte ultimamente, il termine rifugio. Stamattina l'oro si è riportato a $1,149 l'oncia ai massimi da gennaio, il top storico, lo ricordo, è stato toccato a novembre a $1,195 l'oncia. Un altro rifugio è stato rappresentato nelle ultime settimane dal franco svizzero, con l'euro che è sceso ai suoi minimi dalla nascita dell'euro, e l'euro sul dollaro sta continuando a scendere per effetto della crisi greca, è a 1,33 in questo momento rispetto al biglietto verde. Insomma, quanto è destinato ancora a scendere secondo lei l'euro e come giudica anche di nuovo questa ricerca del rifugio, tutto determinato ovviamente immagino da questo focolaio di cui stiamo parlando questa mattina? Ma qui direi ci sono degli elementi che sono un pochettino contraddittori per il momento in relazione a quello che sta succedendo sui mercati finanziari, nel senso che parlare di beni rifugio e di ricerca della sicurezza in questo momento farebbe pensare a situazioni di grossa volatilità sui mercati. E noi sappiamo, veniamo da due anni in cui le volatilità sono state molto alte, il quarto trimestre del 2008 ha visto delle volatilità eccezionali. In realtà se noi andiamo a vedere le volatilità sul mercato obbligazionario, sul mercato azionario in questo momento, sono tornate queste volatilità sui livelli medi del periodo che ha preceduto la crisi, cioè sui livelli che hanno caratterizzato il periodo dal 2002 al 2007. Quindi oggettivamente da quello che emerge dai dati di mercato noi possiamo dire che c'è molta rilassatezza. C'è un pochino di confusione, per cui è abbastanza condiviso che l'inflazione dal punto di vista della sua dinamica endogena, cosiddetta core, non sia un problema nei paesi sviluppati, però nello stesso tempo si guarda con preoccupazione alla posizione di insostenibilità del debito pubblico di tanti paesi anche sviluppati, anche molto importanti, anche AAA come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, specialmente nel lungo termine. Allora, di fronte a questi rischi che sono, diciamo, molto dicotomici, no? Cioè non si possono realizzare contemporaneamente, certo, la deflazione e la monetizzazione del debito, gli investitori, specialmente gli investitori istituzionali come i fondi pensione, stanno attuando delle politiche di diversificazione su asset che possono proteggere nel lungo termine da alcuni di questi rischi, anche se fra di loro questi rischi ovviamente non si potranno realizzare in maniera contemporanea. Uno di questi rischi di lungo termine, secondo noi, che è destinato a caratterizzare direi la seconda metà di questo decennio, è probabilmente l'inflazione, e un hedge, una protezione, una copertura efficace contro l'inflazione storicamente è stata rappresentata dal mercato immobiliare da un lato, ma questo non è il momento e comunque siamo appena stati scottati da quello che succede nelle bolle immobiliari, quindi il mercato immobiliare è un po' trascurato, e l'altra asset class che storicamente ha protetto dall'inflazione in chiave reale è rappresentata dai beni reali, dalle commodity, e quindi l'oro in particolare è stato uno di questi sfori. Quindi nei grossi portafogli istituzionali dei grandi fondi pensione del mondo cominciano a comparire quote tra il 5 e il 10% di commodity, tra cui l'oro riveste sicuramente un ruolo importante, ma non è l'unica commodity, perché il mondo delle commodity è fatto di commodity industriali, come esempio il rame, che però quelle naturali, i cereali, il grano, tutte quelle cosine là, insomma, quindi sì, è un paio assolutamente molto, molto variegato. Quindi quali sono quelle che sono più presenti nei portafogli che lei ci indicava? Ma sicuramente l'oro è una delle commodity più facilmente, diciamo, scambiabili dal punto di vista finanziario, più finanziarizzate, così come il petrolio, quindi è una di quelle su cui ci si concentra di più, o questi operatori si sono concentrati di più. Non ci sono molti veicoli, ci sono un po' di ETF per esempio, che però hanno anche delle grosse problematiche, per esempio a livello della qualità degli asset sottostanti, cioè in molti casi i veicoli che un investitore può comprare per acquisire partecipazione al movimento delle commodity non investono direttamente nella, certo, commodity, ma investono in strutture finanziarie che ci sono costruite sopra, che replicano l'esposizione con un rischio di credito, rischio controparte, che comunque va osservato con attenzione. Comunque, un piccolo investitore di questi problemi non si deve dovrebbe stare lontano, insomma. Un altro ascoltatore affezionato della nostra trasmissione, Buddy, dice: posso dare conforto ai risparmiatori, nonostante la pseudo crisi greca, così la definisce, i mercati rimangono ben impostati. E vabbè, bisognerà vedere se sotto questa buona impostazione c'è qualcosa di concreto. Io non lo so, mi sembra che le aziende non abbiano ancora ripreso a produrre in maniera significativa. Dottor Franco, insomma, la manifattura italiana soffre ancora parecchio. Finché noi prenderemo in considerazione la borsa italiana, che è tanto composta di titoli, come dire, bancari e finanziari, non so se il mercato può essere preso a riferimento anche dell'economia, non mi pare. Ma direi i segnali dell'area euro nel brevissimo termine, quello che stanno mostrando in realtà è un'attività di produzione industriale che sta recuperando dopo un tracollo legato chiaramente al timore di accumulare troppi magazzini che sono stati decumulati in modo molto aggressivo. Quindi l'attività di produzione industriale sta funzionando bene nell'area euro nel suo complesso, ma direi che invece la sorpresa che continua a essere negativa è quella legata ai consumi. I consumi continuano a essere stagnanti. È uscito poco fa ancora il dato, credo di febbraio, delle vendite al dettaglio per l'area euro, che mostrano un calo dello 0,6%, mi sembra, mese su mese. Guarda, per non dirle poi che disegno ha dipinto stamattina l'Istat sui redditi delle famiglie italiane, per cui vabbè, noi rimaniamo sempre italiano concentrati, però. Quindi secondo noi c'è un pochettino, è vero che dal punto di vista puramente tecnico il mercato appare impostato, il mercato azionario, in maniera positiva, e nello stesso tempo quello che noi pensiamo è che i mercati degli asset più rischiosi e dell'equity in particolare stiano anticipando un tipo di ripresa che non è quella che probabilmente avremo davanti. La ripresa che abbiamo davanti è una ripresa molto fiacca, con dei rischi significativi, molto fragile. Ecco. Allora, dal volo, le due domande dei due ascoltatori che aspettano da un po'. Danilo da Vercelli, buongiorno. Buongiorno. Senta, visto che abbiamo un po' tutti capito che il problema vero è questa insostenibilità dei debiti da parte dei paesi sovrani, la domanda è: chi è il creditore di questi debiti e perché ogni paese sovrano ha questi enormi debiti verso questo soggetto che i più non conoscono? Questo soggetto? Adesso le rispondiamo, Danilo. Sentirei anche Fabrizio da Firenze. Sì, buongiorno. Io volevo fare una puntualizzazione. Sì. Io praticamente cerco di ragionare in maniera molto concreta e poco emotiva, quindi vedo nella Grecia un'opportunità di investimento a questi prezzi, cioè, ho acquistato un ETF che sulla Grecia è sceso molto e penso che ci siano delle buone potenzialità per fare guadagni. Fabrizio, guardi, gli investitori più grandi non è che non valutino la Grecia come opportunità in questo momento, bisogna avere però un atteggiamento molto aggressivo, molto speculativo. Io mi auguro che non tutti i suoi risparmi siano stati collocati in questo prodotto e che abbia fatto una saggia diversificazione, quindi abbia fatto una scommessa anche sulla Grecia. Certo. Me lo auguro. Va bene Fabrizio, comunque questa è una decisione, l'importante è che sia del tutto consapevole. Danilo da Vercelli, insomma, si interroga, ma chi è questo misterioso soggetto verso il quale tutti gli stati sovrani sono debitori, dottor Franco? Ecco, magari può sembrare una domanda un po' ingenua, di sicuro con la crisi gli stati hanno dovuto indebitarsi pubblicamente, insomma, a dismisura, perché altrimenti qua tracollava tutto un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Ma diciamo, questi sono dati tendenzialmente, almeno per i paesi sviluppati, pubblici, i dati, così come è pubblico il debito, nel senso che di solito le banche centrali e spesso anche le autorità dei tesori degli stati che emettono debito informano i mercati circa il modo in cui è distribuito questo debito. Di solito le categorie che vengono analizzate riguardano sostanzialmente il debito pubblico che viene comprato dai residenti, quindi il debito dello Stato italiano che è comprato dagli italiani, e italiani in questo senso può essere sia il singolo risparmiatore che istituzioni italiane, e il debito dei non residenti. Questo per esempio è un tipo di analisi molto importante, perché storicamente quando si verificano i default, cioè quando gli stati sovrani hanno problemi a far fronte ai propri pagamenti e debbono in alcuni casi ristrutturare il proprio debito, quello che si nota è che è tanto maggiore la probabilità di default quanto maggiore è la base di investitori non residente, ovviamente, perché i costi politici di fare un default quando il proprio debito sovrano è detenuto da non residenti sono più bassi, altrimenti si farebbe inferocire la popolazione che ha comprato, no? Che è già inferocita per altri motivi. Ecco, quindi questo diciamo è una delle grosse casistiche. In una fase come questa, per un paese dell'area euro, quello che conta poi è l'interconnessione. Ecco, nel caso della Grecia, essendo i greci non dei grossi risparmiatori, anzi avendo consumato più di quanto guadagnavano, no, tanto per fare un esempio magari più semplice da far capire, il grande creditore degli Stati Uniti è la Cina. Ecco poi, tanto per fare un esempio molto chiaro, questo è un altro tema, la Cina, il Giappone, però nel caso della Grecia per esempio quello che è interessante è l'interconnessione che può essere determinata, e l'effetto quindi domino potenzialmente determinato da una crisi di debito di un paese come la Grecia, appunto. Cioè, chi detiene questo debito? Sappiamo che circa il 30% sono residenti, se non meno, l'altro 70% se non di più è fuori dalla Grecia, detenuto da non greci, e una quota rilevante di questo debito è detenuto da banche dell'area euro. In particolar modo ci sono banche francesi che hanno una grossa esposizione, e anche banche fuori dall'area euro, direi banche greche. Infatti stamattina i titoli delle banche francesi stanno andando a picco, seguono la borsa. Banche svizzere, quindi è chiaro che un problema sul debito greco diventa un problema dell'area euro, in quanto può impattare su un sistema bancario che ha già i suoi problemi. Adesso non li tocchiamo, ma credo che gli l'Italia non dovrebbe avere però molti titoli greci nel proprio portafoglio, ma credo che le banche italiane nel complesso abbiano dichiarato a fine del terzo trimestre dell'anno scorso meno di 10 miliardi di euro di esposizione, insomma, complessiva. Potremmo sopportare anche questa crisi noi teoricamente, però speriamo che non si verifichi. Allora, prima di concludere, anche oggi vi ricordo che a fine mese, 21, 22, 23 aprile a Milano, si svolge il Salone della gestione del risparmio, è un grande evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito, e noi stiamo accompagnandovi come Radio 24 verso questa iniziativa. Ogni giorno vi proponiamo una parola del risparmio, la parola che abbiamo scelto oggi è una parola che probabilmente tutti voi conoscete, ma per chi non sapesse chi è il promotore finanziario, oggi glielo spieghiamo. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. La gamma degli strumenti finanziari proposti dal mercato è vasta e molti risparmiatori, per scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, si affidano ai promotori finanziari, cioè professionisti del risparmio che per conto di una società di intermediazione immobiliare o investe di consulenti indipendenti collocano prodotti e servizi di investimento al pubblico. In particolare, il promotore finanziario è un soggetto a cui deve ricorrere una società di intermediazione immobiliare o una banca nel caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari o di servizi di investimento. I promotori finanziari possono dunque assumere la veste di dipendenti, mandatari o agenti di una SIM o banche e devono essere iscritti in un apposito albo tenuto presso la Consob. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato Le parole del risparmio. Dottor Franco, io ho veramente 30 secondi di tempo, però c'era una domanda di un'ascoltatrice, Enrica da Torino, che non riusciamo a far intervenire, che voleva chiedere rischi e prospettive di rendimento su bond di paesi emergenti, come procedono. Non ce la faremo mai, ovviamente. So che però voi avete una posizione molto interessante ed aggressiva forse sul Giappone. Ce la fa in 20 secondi a descrivercela? Sì, allora facciamo riferimento al mercato azionario. Mm-hmm. Diciamo, noi in questo momento non siamo positivi sui mercati azionari dei paesi emergenti, cosa che invece viene comunemente venduta ai piccoli investitori. Noi pensiamo che bisogna distinguere tra un buon investimento e delle buone opportunità fondamentali di lungo termine. Quindi nessuno dubita che la Cina o il Brasile siano delle nazioni che hanno dei potenziali demografici molto importanti, però pensiamo che ci sono dei momenti in cui i mercati azionari scontano troppo di queste prospettive, e questi momenti sono momenti simili a quelli che viviamo oggi. Quindi pensiamo che sia più interessante per un investitore che vuole comprare un'esposizione azionaria e vuole comprarsi anche un'esposizione ai paesi emergenti, specialmente ai paesi emergenti dell'Asia, specialmente alla Cina, andare a comprare il Giappone anziché la Cina, perché il Giappone è un mercato che ha fatto molto male, ha sottoperformato, è molto attraente dal punto di vista valutativo ed è destinato a beneficiare molto dell'indebolimento dello yen che la banca centrale giapponese vuole ingegnerizzare per cercare di uscire dalla deflazione. È un tema molto affascinante, molto complicato, purtroppo non riusciamo questa mattina ad affrontare in maniera più approfondita, ma magari ci ritorneremo. Intanto io le auguro buon lavoro, dottor Franco. Grazie. A presto, e probabilmente ci risentiremo anche per il Salone del Risparmio. Salva Danaio termina qui, ritorniamo domani, saremo in diretta da Verona, dal Vinitaly, quindi non perdete la vostra Salva Danaio, la vostra trasmissione appunto domani, e quindi buona giornata.